in primo piano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. I giornali oggi hanno titoli molto variegati, ma direi che il titolo principale è quello dell'allarme di Berlusconi. Un Berlusconi presentato in alcuni titoli come sorprendentemente pessimista, visto il suo costante atteggiamento alla ricerca di spiragli di ottimismo laddove questo è possibile. Da questo punto di vista l'unico giornale a perdere forse un'occasione, vista la sua contrarietà al governo, è Repubblica, che invece non coglie questa apparente retromarcia del Premier. Ma partiamo dal Corriere. Berlusconi e la crisi globale, questo è il titolo, 20 milioni di posti a rischio. La Stampa, Lavoro, l'allarme di Berlusconi, il Premier 25, qui addirittura aumentano i milioni di posti in pericolo nel mondo per il 2010. Ma partiamo subito con la prima cronaca, quella di Roberto Bagnoli sul Corriere della Sera. Berlusconi, timori per l'occupazione, questo è il titolo, entro il 2010 via 20 milioni di posti di lavoro. Non lasceremo nessuno indietro, così scrive Bagnoli, parole attribuite a Berlusconi. Le risorse ci sono, ma se fosse necessario non sono spaventato ad aumentare il deficit pubblico. Non è possibile privilegiare i bilanci lasciando le persone nella disperazione. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi conclude il G8 sul lavoro di Roma con un forte impegno sociale anticrisi, annunciando che ai governi del G20, che inizia domani a Londra, proporrà un social pact, cioè un patto sociale per difendere il posto di lavoro nelle imprese e più in generale un patto globale che possa sostituire al pessimismo l'ottimismo, la fiducia alla sfiducia, la fiducia, e trasformare la paura in speranza. Quindi ecco tornare il Berlusconi dei temi a lui più cari. Comunque il Cavaliere ieri non ha negato l'esistenza dell'emergenza. Ecco le sue parole: ci aspettano ancora 2 anni e mezzo di difficoltà. I numeri li sapete, sono preoccupanti, con stime negative che parlano di 20 milioni di posti persi entro il 2010 nell'area OCSE. Ma poi Berlusconi non si trattiene e quando nel corso della conferenza stampa qualcuno gli ricorda i corvi confindustriali, Berlusconi se la prende soprattutto con le organizzazioni internazionali come l'OCSE per l'appunto, che, e queste ancora sono le sue parole, prima non sono state capaci di prevedere la crisi e poi fanno stime negative un giorno sì e un giorno no, ma stiano zitti. Sul deficit, ed è questo il tema invece che preme di più a Repubblica, che ne tratta a pagina 6, ecco, e questo è il tema interessante che emerge con evidenza dalla presa di posizione di Berlusconi, perché è evidente che il social pact e gli altri interventi a favore del posto di lavoro possano in qualche maniera determinare un aumento della spesa pubblica. E il titolo del pezzo di Elena Polidori è: OCSE in Italia disoccupati al 9%, Berlusconi pensa di allargare il deficit. Vediamo esattamente che cosa scrive Repubblica. Alla vigilia del G20 di Londra, il Premier italiano annuncia che proporrà ai partner internazionali un social pact, questo l'abbiamo già visto, per combattere la crisi e trasformare il pessimismo in ottimismo e la paura in speranza, ma soprattutto prima fa capire che i cordoni della spesa si possono allargare per fronteggiare gli effetti della recessione, poi però si fa più cauto. E dunque all'inizio spiega: non sono spaventato se ci sarà un aumento del debito pubblico per affrontare una spesa provvisoria che è la prima necessità. Vuole uno sforamento del deficit? Si domanda Repubblica. Risposta di Berlusconi: per ora i fondi sono abbondanti. Tremonti mi ha detto di stare tranquillo, che quanto messo in campo è più che sufficiente, ma se anche quanto detto da lui non fosse vero, noi non privilegeremo la spesa pubblica rispetto alla necessità di difendere il lavoro. Quindi c'è un prudente atteggiamento di disponibilità a un incremento di spesa. L'unico giornale che va oltre e analizza un poco più nel profondo le idee di Berlusconi in questo social pact e quello che può essere utilizzato effettivamente per salvare il lavoro è il Sole 24 Ore, in un pezzo di Giorgio Pogliotti richiamato in prima con un titolo prevalente su quello del Berlusconi pessimista, diciamo così: imprese dei giovani esentasse per 3 anni, priorità al lavoro, serve il social pact, questo è il sommario, e dentro l'articolo è a pagina 3. Tra le altre cose, Pogliotti scrive, a sostegno di lavoratori e imprese è previsto inoltre un pacchetto di misure anticicliche, a partire dal sostegno fiscale per favorire lo start-up di nuove imprese promosse da disoccupati. Il governo, ha detto Berlusconi, sta pensando a incentivi perché colpito dalla perdita, speriamo temporanea, del posto di lavoro e volesse avviare un'impresa, anche piccola. Stiamo studiando un aiuto per chi intraprende una nuova attività imprenditoriale che sarà escluso dalla tassazione per i primi 3 anni. Quindi 3 anni esentasse per chi, perduto il lavoro, dovesse decidere di creare una nuova impresa. Questo non soltanto per i giovani, in questo forse il titolo di prima pagina è in parte fuorviante, ma per chiunque abbia questa opportunità e questa scelta. L'altro tema della giornata è quello dell'aggressione, diciamo così, anche se assolutamente inoffensiva dal punto di vista fisico, nei confronti di una serie di dirigenti di impresa in Francia. In Francia gli operai hanno sequestrato per alcune ore 5 dirigenti della Caterpillar a Grenoble. La Caterpillar produce grandi macchine per il movimento terra. E a Parigi è stata assaltata l'auto di Henri Pinault, il presidente di PPR, la multinazionale del lusso. E insomma, il titolo più divertente e ficcante è, come spesso capita, quello del manifesto, assalto alla dirigenza, con la R, non con la L ovviamente. Il testo di Valentino Parlato in prima pagina, si vedono intanto in una grande foto i dirigenti perplessi di Caterpillar circondati dai contestatori in un ufficio. Valentino Parlato fa un'analisi tra il sociologico e lo storico. Una delle novità di questa crisi è che i padroni non si vedono più, scrive. Ci sono invece i manager da punire, da tassare, da sequestrare. A pensarci un po', scrive Parlato, sembra di essere tornati alla civiltà contadina, quando i baroni proprietari stavano nei bei palazzi di città, quasi tutti gli agrari pugliesi abitavano a Napoli, e in campagna c'erano solo i fattori, contro i quali si scatenava l'ira di braccianti e di contadini. Forse, dice Parlato, in questo nascondersi c'è anche un indebolimento del diritto di proprietà, e vale ricordare che nelle campagne la proprietà assenteista apre le porte alla riforma agraria. È un dato di fatto che i manager, come i fattori di un tempo, con le stock option e altro, hanno ridotto i guadagni del proprietario, che pur di rimanere nascosto accettava di pagare il tributo. E anche in Italia alcuni eccellenti manager, non farò nomi, si sono un po' arricchiti alle spalle dello sfruttamento dei padroni sui lavoratori. Si potrebbe ancora aggiungere che la primazia dei manager potrebbe essere un primo passo per l'abolizione della proprietà, nel senso che i proprietari sono diventati rentier, cioè ereditieri. Intanto la rabbia dei lavoratori in Francia si scatena contro i manager, che sono gli attuali fattori. La storia delle campagne può insegnare qualcosa. E qui ovviamente prevale l'ideologia, ma è una lettura piuttosto interessante e comunque intelligente. Su Repubblica, a pagina 3, si dà conto di quello che effettivamente è successo ieri. Ed è il corrispondente da Parigi, Gian Pietro Martinotti, a scrivere. Parigi, dimostranti contro Pinault, il re del lusso, ostaggio per un'ora, assedio alla City e allarme bomba alla Bank of England. 5 dirigenti della Caterpillar sono stati sequestrati vicino a Grenoble. François-Henri Pinault, bloccato in taxi per un'ora da una cinquantina di suoi dipendenti, manifestanti che lanciano uova contro le forze dell'ordine per protestare contro Nicolas Sarkozy in visita nel Pitou-Charente. I conflitti sociali francesi si radicalizzano, le azioni di protesta diventano sempre più violente con l'approfondirsi della crisi. Gli episodi non sono numerosi, ma vengono presi molto sul serio dagli esperti e dai sindacati, che non riescono a canalizzare il malcontento sociale. Alla vigilia del G20, e questo è un punto di lettura importante, perché sicuramente questo accrescersi di tensione sociale è probabilmente molto legato a questo appuntamento quasi storico e sicuramente coperto da aspettative messianiche, le tensioni crescono. E lo stesso avviene anche sull'altra sponda della Manica. Oggi a Londra ci saranno ben 3 manifestazioni e ieri si è temuto per un allarme bomba di fronte alla Banca d'Inghilterra. A Grenoble sono stati sequestrati l'amministratore delegato della filiale dell'americana Caterpillar e altri 4 manager. L'obiettivo è ottenere indennità di licenziamento più alte e garanzie sul mantenimento dei siti produttivi. Una disavventura molto simile è accaduta a Henri Pinault, il numero 1 e principale azionista del colosso del lusso PPR, quello che ha tra gli altri Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga. il proprietario di Palazzo Grassi a Venezia. Pinault usciva da una riunione del Comitato Europeo del Gruppo che si è svolta nella capitale francese, quando il taxi in cui si trovava è stato bloccato da una cinquantina di lavoratori della FNAC e di Conforama, due aziende in cui sono previste ristrutturazioni e soppressioni di posti di lavoro. L'uomo, simbolo del lusso mondiale, è rimasto in ostaggio per un'ora, poi le forze dell'ordine sono arrivate e hanno permesso a tal taxi di partire senza che ci siano stati incidenti. Intanto a Londra il nervosismo cresce, ovviamente in attesa del G20, un pacco abbandonato vicino alla Banca d'Inghilterra ha scatenato il panico, sono scappate migliaia di persone, la polizia ha sgomberato le strade, insomma c'è chiaramente un fortissimo crescere della tensione per quello che da domani sarà il G20. E andiamo a vedere che cosa è il G20. Il G20 è il giornale che lo tratta più approfonditamente oggi, quindi con un anticipo di un giorno, è probabilmente La Stampa, che a pagina 4, in una corrispondenza di Maurizio Molinari, inviato a Londra, fa anche qualche fosca previsione sui risultati che dalla riunione dei governanti dei primi 20 paesi industrializzati del mondo uscirà. Ecco cosa scrive Molinari, sotto un titolo «L'ira di Sarkozy, un risultato o me ne vado» sulla stampa. Tira aria di battaglia sul vertice del G20 che inizia questa sera con la cena dei leader nella State Dining Room di Downing Street, la camera da pranzo della residenza del Premier. Le ore della vigilia sono state roventi, disegnando un fronte di molteplici conflitti del quale Barack Obama, alla tappa iniziale del suo primo viaggio transatlantico, ha parlato al telefono con il premier britannico Gordon Brown, chiamandolo da bordo dell'Air Force One. A far temere il peggio è il sovrapporsi di più disaccordi. Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha minacciato di abbandonare il vertice prima della conclusione, virgolette, quindi testuale, se non vi saranno risultati concreti, soprattutto sulla rigida regolamentazione dei mercati finanziari, chiesta dai francesi, a cui Washington si oppone. Di fronte all'offensiva francofona, sostenuta da Berlino che chiede regole per gli hedge fund, i diplomatici americani puntano ad abbassare la tensione, scrive Molinari, perché non possono permettersi un fallimento al primo summit al quale partecipa il nuovo presidente americano. Ma proprio perché Obama ha bisogno di un successo, i suoi rivali strategici vanno all'attacco, quindi quasi un gioco di scacchi. Poco prima dell'arrivo di Obama ieri sera a Londra, Cina e Russia hanno chiesto all'unisono, con un comunicato del Cremlino, di rinunciare al dollaro come moneta base. Cambiamo argomento dal G20 ad alcune notizie positive. La prima è oggi si è avuta la notizia che il decreto casa arriverà, anche se sarà leggero, quindi è stata finalmente sbloccata la contesa tra governo e regioni su cosa fare esattamente per gli ampliamenti delle abitazioni, un progetto che tanto stava a cuore al governo Berlusconi. Il giornale che ne dà conto in maniera anticipatoria e con maggiore efficacia è il Sole 24 Ore, a pagina 7, un articolo di Giorgio Santilli che riesce più di altri a anticipare quelli che saranno i risultati effettivamente raggiunti nel corso della notte tra governo e regioni. Cioè l'accordo prevede che ampliamenti di volumetrie di abitazioni residenziali del 20% e gli aumenti in caso di ricostruzione, di demolizione e ricostruzione del 35%, con autorizzazioni semplificate e celeri per gli interventi edilizi. Vi rimando comunque alla lettura dell'articolo, perché ovviamente contiene molte tecnicalità che devono essere. Cioè che è troppo lungo, troppo complesso da riassumere. Altre notizie positive della giornata sono un'iniziativa della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che ha stabilito, e questo è presente su tutti i giornali, destinare fondi per 30 milioni per le famiglie regolari con almeno tre figli. Questi fondi possono essere prestati grazie a un accordo tra le banche e i vescovi alle famiglie povere, si calcolano che siano circa 20.000 e producono quindi un assegno che passa attraverso le banche di 500 euro al mese per un anno, con ovviamente a un tasso sotto l'1% quando il beneficiario troverà lavoro. Il Sole 24 Ore valuta positivamente la notizia, pagina 14, in uno dei suoi commenti. Provarla. Non risolverà certo, scrive Sole 24 Ore, ma è un chiaro segnale. I 500 euro mensili per 2 anni che dovrebbero arrivare a 20-30 mila famiglie in difficoltà per pagare affitto o mutuo attraverso un fondo creato dalla CEI insieme con l'ABI è un segno di quella sussidiarietà tanto cercata ma che in tempi di crisi segna il passo. L'attesa di interventi statali tende a smorzare la capacità di reazione che invece i vescovi hanno mostrato. La Chiesa sta sul territorio con le sue parrocchie e da sempre aiuta le famiglie indigenti. Questa volta è riuscita a smuovere le banche, ed effettivamente questo è il risultato più sorprendente, mutuando meccanismi oliati nelle piazze finanziarie. Con una vecchia e sana colletta da fare a Pentecoste, la CEI conta di raccogliere 30 milioni che faranno da leva finanziaria a garanzia di uno stock fino a 300 milioni di prestiti bancari a tassi che si assicurano bassi. Certo, la platea dei beneficiari non sarà molto alta, anche per la griglia stretta. Non sono molte le famiglie regolari con 3 figli, che sono appunto quelle a cui si verrà destinato il prestito, anche se la CEI ha garantito che non farà discriminazioni fra famiglie sposate in chiesa e coppie sposate in comune, quindi famiglie regolari con 3 figli, visto che in Italia la natalità è di 1,6 a coppia. Ma tant'è, se si fossero allargate le maglie, 2 figli, includendo divorziati o coppie di fatto, morale cattolica a parte, le cifre mensili sarebbero diventate davvero irrilevanti. Sempre il Sole, a pagina 14, dà un'altra notizia apparentemente positiva, che, scusatemi, no, è a pagina 19, a 14 era il commento alla CEI, a pagina 19 il Sole 24 Ore analizza un calo di inflazione veramente impressionante. L'inflazione ai minimi dal 1969, scrive Franco Vergnano, era dal 1969 che l'inflazione italiana non era così bassa, è cresciuta soltanto dell'1,2% in marzo, secondo prime stime, rispetto allo stesso periodo del 2008, e l'incremento mese su mese è stato dello 0,1%. Lo ha comunicato ieri l'Istat utilizzando stime provvisorie. Da notare che a febbraio l'inflazione era salita dello 0,2% rispetto a gennaio e quindi l'incremento era stato dell'1,6%. A provocare questo calo, questo violento rallentamento dei prezzi sono stati soprattutto la benzina infrenata del 15,9% e anche prezzi di pane e cereali che sono scesi del 5-6%. Altre notizie interessanti riguardano la Fiat, con qualche titolo particolarmente efficace. La Fiat ieri è volata in borsa dopo il clamoroso apprezzamento ricevuto dal presidente americano Barack Obama, che ne ha fatto addirittura la clausola per garantire i 6 miliardi di euro alla Chrysler che con Fiat si associa sulla ricerca tecnologica e sull'adozione di tecnologie per le vetture più piccole. Fiat, che è il titolo che aveva perso lunedì il 9,35% in borsa, ieri è volata a Piazza Affari con una crescita del 10,3% e quindi si va sicuramente a stringere sul piano con la casa di Detroit. Altre notizie interessanti riguardano un tema invece che con l'economia ha poco a che fare, che è l'omeopatia. L'omeopatia, voi sapete, è quel tipo di terapia farmacologica che ha sempre scatenato reazioni assolutamente controverse, eppure in Italia l'omeopatia diventa ufficiale. Controlli su 31.000 prodotti, scrive il Corriere della Sera. Questo vuol dire che accresceranno decisamente i controlli e della commissione per i farmaci. Questo sicuramente non piacerà Piero Angela, che tempo fa è stato il primo, è sempre stato uno dei più accaniti oppositori della efficacia delle cure omeopatiche, tanto da intentare una causa al presidente dell'Associazione degli Medici Omeopatici, e che per una diffamazione presunta mi pare che la vinse. Giro di vite per l'omeopatia, dice il Corriere della Sera, oltre 31.000 prodotti sosterranno per la prima volta l'esame dell'Agenzia Italiana dei Farmaco, l'AIFA, valutati sul piano della qualità secondo linee guida che l'organismo diretto da Guido Rasi ha licenziato questa settimana, con un obiettivo: afferrare le briglie di un settore non sufficientemente regolato e che finora ha come galleggiato i margini dell'ufficialità, anche se il suo interno operano aziende serie e qualificate. È in realtà un programma anti-clandestinità, per quello che viene presentato, però sicuramente è anche un passo avanti verso l'ufficializzazione della categoria farmacologica. Gli euro incassati dal fisco oggi per la vendita dei medicinali omeopatici, calcola il Corriere, sono circa 40 all'anno. Un altro ultimo tema è quello che riguarda Mario Chiesa, arrestato ieri per presunti illeciti nel trattamento dei rifiuti in Lombardia. Su tutti direi la rubrica Buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa in prima pagina: il nuovo arresto di Mario Chiesa mi ha profondamente stupito, ero convinto, scrive Gramellini, che l'iniziatore di Tangentopoli sedesse in Parlamento, per il resto nessuna sorpresa, ma solo la conferma che in questo paese immobile non c'è ricambio neanche tra i trafficoni, si riposano per qualche anno in carcere se va bene, altrimenti a casa, riflettono, studiano, accumulano conoscenze e poi ripartono con rinnovato entusiasmo verso nuove avventure, e intanto le giovani generazioni i truffatori restano al palo. Gramellini, come al solito, geniale, e con grande ironia, addirittura c'è un blocco sociale geriatrico dei presunti truffatori. E buona giornata, ci risentiamo venerdì invece, perché domani la parola per la segna stampa torna, se non sbaglio, al direttore Fabi. Sì.